426. Piselli col prosciutto. Lasciamo agli inglesi il gusto di mangiare i legumi lessati senza condimento o al più con un poco di burro. Noi popoli meridionali abbiamo bisogno che il sapore delle vivande ecciti alquanto. In nessun altro luogo ho trovato buoni i piselli come nelle trattorie di Roma, non tanto per le eccellenti qualità degli ortaggi di quella città, ma perché colà ai piselli si dà il grato sapore del prosciutto affumicato. Avendo con qualche prova tentato di indovinare come si preparino, se non ho raggiunto quella stessa bontà, mi ci sono appressato ed ecco come. Dividete in due parti per il lungo, secondo la quantità dei piselli, una o due cipolle novelline e mettetele al fuoco con olio e alquanto prosciutto grasso e magro tagliato a piccoli dadi. Fate soffriggere finché il prosciutto sia raggrinzito. Allora gettate dentro i piselli, conditeli con poco punto sale e una pressa di pepe. Mescolate e finiteli di cuocere col brodo, aggiungendovi un poco di burro. Serviteli o soli come piatto di legume o per contorno, ma prima gettate via tutta la cipolla.